Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Wimbledon 1975. Title holder Jimmy Connors plays against Arthur Ashe in a very exciting final. Despite the determination and spectacular point scoring of favourite Connors, the cool head of Arthur Ashe helps him to stay on top. He becomes the first black male player to win Wimbledon. Another golden moment of Wimbledon. One more time. Say it loud. 5 luglio 1975, campo centrale di Wimbledon. Che giorno di grazia deve essere stato quello per Arthur Ashe. A 32 anni, questo campione afroamericano nato nel sud degli Stati Uniti a Richmond conquista il trofeo più prestigioso del tennis mondiale, battendo in finale il grande favorito e bad boy del tennis di allora, Jimmy Connors, sconfitto in 4 set per 6-1, 6-1, 5-7, 6-4. Some guys, when they lose, they don't like sitting in that chair too much, so thanks for coming. No, pleasure, don't worry, it's okay. Yeah. What did Connors say to you when you've beaten him at the end? Didn't say anything. I didn't say anything either. Why not? What can I say? I just shook his hand and walked off. Can't win them all, I guess. I was up against a very hot Arthur Ashe. Nelle interviste del dopogara, Connors, che si presenta ai microfoni malgrado la rabbia per la sconfitta, riconosce la superiorità di Ashe, che a sua volta si congratula con l'avversario, come già aveva fatto in campo, stringendogli la mano, mentre sottolinea l'importanza di questa vittoria non solo per lui e la sua carriera, ma per tutti i neri d'America e per tutti quelli discriminati in ogni parte del mondo. Ashe diventa così, infatti, il primo e finora unico atleta nero a trionfare a Wimbledon. Dopo di lui, che già aveva conquistato gli Open degli Stati Uniti nel 68 e gli Australian Open nel 70, bisognerà aspettare il 1983, quando Yannick Noah vincerà a Parigi, per vedere un altro nero trionfare in una prova dello Slam. Basterebbe questo per celebrare il mito di Arthur Ashe, ma ancor più che in campo Ashe sarà campione fuori, con le sue battaglie per i diritti civili, contro le discriminazioni e l'apartheid in Sudafrica e fino alla morte, avvenuta a soli 49 anni nel febbraio del 1993 a causa dell'AIDS, contratta per una trasfusione da sangue infetto durante un intervento chirurgico per far fronte ai suoi gravi problemi di salute. Ebbene, Ashe seppe trasformare anche questi in giorni di grazia, che è poi il titolo della sua autobiografia, pubblicata ora in Italia da ADD Editore. Di questo campione, della sua vita, del suo coraggio e delle sue scelte controcorrente, ci chiedono oggi di parlare gli dei dello sport qui a Olimpia. E lo facciamo con chi lo affrontò in campo, lo conobbe da amico ed avversario, e con chi lo ha ammirato da sportivo presentando proprio giorni di grazia al Salone del Libro di Torino. Paolo Bertolucci, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera. E benvenuto a Olimpia, Mauro Berruto. Buonasera e grazie a voi per l'invito, è un piacere davvero. Beh, Paolo Bertolucci, uno degli assi della generazione d'oro del nostro tennis, lei ha avuto la fortuna di conoscere Ashe a bordo campo, ma anche la sfortuna di averlo come avversario. Si ricorda la prima volta che lo affrontò? Ma la prima volta non la ricordo perché ho perso, quindi l'ho cancellata completamente. No, ma al di là di questo, la cosa, il match che è rimasto naturalmente nella mia mente, ottavi di finale a Parigi, a Roland Garros, lui era numero, credo, 4 del mondo, se non sbaglio. Io ero ancora abbastanza giovane, avevo... No, sicuramente giovane, rispetto adesso poi in maniera particolare, 22-23 anni e vinsi anche abbastanza facilmente perché lui poi era un giocatore molto ma molto forte sulle superfici più rapide, però era abbastanza leggero e quindi sulla terra battuta non si trovava particolarmente bene. Beh, quello per me fu uno dei risultati più importanti della mia carriera. Infatti dico, bella fortuna non averlo trovato a Wimbledon, sarebbe andata peggio. Certo, ma non andavo io a Wimbledon, così almeno risolvevo il problema. È sempre ironico, Paolo. Senta, tecnicamente che tipo di tennista era Arthur Ashe? Prima di tutto era un signore in campo e fuori dal campo. Stilisticamente inappuntabile, molto leggero nei movimenti, con un grandissimo timing sulla palla. Starting with that grip of the forehand when the hand and your wrist was literally behind the racket like this. Maestro di tecnica sopraffino quindi Ash, come sentiamo qui mentre è impegnato a descrivere la perfetta tecnica d'esecuzione del rovescio, ma dicevamo anche straordinario gentleman in campo, e sì che a quei tempi i bad boy tennistici davvero non mancavano, a partire proprio da Connors e McEnroe, che Ash ebbe prima come avversari in campo e poi come atleti a sua disposizione quando, da capitano di Coppa Davis, conquistò con gli Stati Uniti la prestigiosa insalatiera nel 1981 e 82. Non facile, vero? Ecco, Mauro Berruto, ex CT della Nazionale Azzurra di pallavolo maschile e bronzo olimpico a Londra 2012, mettere insieme caratteri tanto diversi, eh? Sì, quella parte del libro mi ha entusiasmato. Ovviamente la storia di Ash è una storia molto, molto densa di cose che succedono, naturalmente la malattia, c'è tutta una parte iniziale dove lui racconta il suo essere sportivo, ma essere estremamente attento anche ad altri mondi, come il mondo dell'arte, il mondo della cultura e quant'altro, ma poi c'è questa parte dove lui racconta il suo straordinario orgoglio dell'essere chiamato, dopo averla difesa da atleta, a rappresentare la nazionale americana, insomma, diventando il capitano, che nel tennis è un ruolo molto vicino a quello del commissario tecnico nella Coppa Davis, appunto, per gli Stati Uniti. Che è vero, lui ha a che fare con due personaggi molto particolari come John McEnroe e come Connors, e riesce in qualche modo a tirare fuori il meglio anche da loro, nonostante, che raccontano molto spesso, tanti episodi dove, insomma, la sua pazienza sembra arrivare al limite. Mi ha entusiasmato quella parte dove davvero Arthur Ashe dimostra come, al di là delle qualità tecniche, ha un atleta che ricopre e che ha l'onore di rappresentare un paese, una nazione, c'è un, come dire, una priorità che è quella dell'essere rappresentativi e del portare in campo non solo, appunto, i propri gesti tecnici che permettono di vincere o di perdere dei punti, ma uno stile, un modo di essere atleti che è qualcosa di più grande, di più importante. Torniamo ai ricordi con Paolo Bertolucci. Dicevamo, Paolo, rivale in campo ma al di fuori, ebbe la possibilità di familiarizzare con Ash? Sì, sì, indubbiamente, soprattutto a Düsseldorf si giocava la Nation Cup, che è una manifestazione a squadre organizzata da quel club tedesco. Ecco, in quella situazione praticamente rappresentavamo la propria nazione, però poi erano soltanto 8 le nazioni invitate, e quindi la sera poi c'era la cena più o meno ufficiale, ma che comunque tutti partecipavamo, e quindi c'era uno scambio continuo, non è che ci fosse il tavolo Italia o il tavolo americano o quello tedesco, quindi i giocatori poi ci conoscevamo tutti molto bene, e quindi c'era uno scambio continuo. Mi è capitato di mangiare anche al tavolo con Arthur, ripeto, era un signore, una persona squisita, un lord inglese sembrava, e poi è stato uno dei primi esempi di giocatore di colore che si è affermato in uno sport dove il bianco in ogni caso faceva la padrona. E allora, proprio da qui ripartiremo, dopo una breve pausa, con Paolo Bertolucci e Mauro Berruto per rivivere la parabola di Arthur Ashe qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. We'll be right back. nothing, nothing without a woman or a girl. 40-15. So, 2 championship points for Arthur Ashe. That's it! And he's done it! To take us over the road. Made me the train. 5 luglio 1975. Arthur Ashe batte Jimmy Connors in 4-7 e diventa così il primo e finora unico afroamericano a vincere il torneo di Wimbledon, più volte poi vinto, lo ricordiamo, in campo femminile dalle sorelle Williams. Campione, paladino dei diritti civili, in campo contro l'apartheid e la segregazione razziale, Arthur Ashe, morto ad appena 49 anni nel febbraio del 1993. Lo ricordiamo oggi in compagnia di Paolo Bertolucci, uno dei campioni della generazione d'oro del nostro tennis, e Mauro Berruto, ex CT della nazionale di volley maschile, che ha presentato al Salone del Libro di Torino Giorni di Grazia, l'autobiografia di Ashe, ora pubblicata finalmente in Italia da ADD Editore. Paolo Bertolucci, le chiedo ancora, ma il tennis di allora, quello suo e di Ashe, era uno sport razzista? E se sì, perché? Ma perché il tennis costa agli inizi, cioè il poter frequentare i club, le attrezzature, le racchette, i tornei durano una settimana, quindi quando un ragazzino deve andare a giocare un torneo a 300-400 km da casa e star fuori una settimana, è tutto sulle spalle della famiglia, quindi era abbastanza normale che non ci fossero grosse possibilità per le famiglie meno abbienti, e quindi soprattutto in quegli anni ancora i giocatori di colore erano veramente pochi. Poi dopo si è visto che invece è esploso anche da quel punto di vista lì, come poi insomma nel basket e in tanti altri sport, soprattutto americani. Il Sudafrica dell'apartheid, ricordiamolo, impedì ad Ashe di partecipare proprio agli Open del Sudafrica nel 1970. Un episodio narrato in Giorni di Grazia e che fa del tennista un simbolo della lotta contro il regime di Pretoria, giusto Mauro Berruto? Sì, un altro episodio decisivo nella sua storia di atleta e di uomo. Ovviamente lui che vive un po' questa contraddizione, no? Perché è un atleta di colore in uno sport profondamente connotato e dominato dai bianchi, quindi diciamo è ai margini anche dell'accettazione di quello che lui fa rispetto alla sua comunità di appartenenza. Paradossalmente è troppo bianco per essere nero e troppo nero per essere bianco, no? Vive costantemente ai margini di questa tensione, però non perde l'occasione di schierarsi. E, insomma, ci sono una serie di episodi che il libro racconta in prima persona e in soggettiva, come uno straordinario incontro con Nelson Mandela. Bertolucci, ma le battaglie civili di Ashe avevano un eco, un riflesso tra voi giocatori? Se ne parlava molto spesso. Ripeto, il fatto che noi giravamo in continuazione per il mondo e quindi frequentavamo anche località, come dire, dove c'erano dei problemi. Prima ad esempio siamo stati parecchio in Sudafrica, quando ancora c'erano i bagni per bianchi e per neri, le panchine nei parchi per bianchi e per neri. Negli Stati Uniti da questo punto di vista erano sicuramente molto più avanti, però soprattutto nel sud c'era ancora molto da lavorare, e quindi capitava spesso, se non nelle cene, anche nello spogliatoio, di affrontare questo argomento. E devo dire che abbiamo avuto la fortuna appunto di frequentare questo tipo di mondo e quindi di avere un'apertura mentale. Probabilmente siamo arrivati qualche decina d'anno prima rispetto agli altri ai problemi odierni. Ma la battaglia più difficile e dolorosa, l'ultima della sua vita, Arthur Ashe l'avrebbe combattuta alcuni anni dopo. I have known since the time of my brain operation in September 1988 that I have AIDS. It was transmitted through a blood transfusion after one of my open heart bypass operations. In all likelihood, the second operation in 1983. È l'8 aprile del 1992 quando Ash annuncia in una conferenza stampa di essere malato di AIDS, contratta nel 1988 a causa di una trasfusione da sangue infetto durante un intervento chirurgico. A rendere pubblico il suo stato, Ash è costretto, per evitare lo scoop di USA Today, pronto a sbattere la notizia in prima pagina senza tenere in alcun conto né la privacy né la volontà di Ash e della sua famiglia. Just as I am sure everyone in this room has some personal matter that he or she would like to keep private, so did we. There was certainly no compelling medical or physical necessity to go public with my medical condition. La protesta veemente del campione a difesa della propria riservatezza cambia da quel momento in poi il modo in cui i media, americani e non solo, tratteranno informazioni di questo tipo. L'autobiografia di Ash, Mauro Berruto, approfondisce proprio i contorni di questa ennesima battaglia. Questo invece è l'inizio del libro, dove c'è un tema che si percepisce estremamente importante per Arthur Ash, che fa riferimento alla reputazione e a che cosa lui intenda con questo concetto. Poi paradossalmente si trova costretto a dover anticipare in qualche maniera la diffusione della notizia della malattia che lo ha colpito, che è l'AIDS, in un momento storico molto diverso da quello di oggi, quindi dove evidentemente il giudizio era un po' diverso rispetto a quello che oggi succede, e lui decide di anticipare, di giocare d'anticipo rispetto a quello che i giornali o i media potrebbero comunicare di quella malattia e del modo in cui lui la contratta, che si riferisce, ahimè, a una sequenza di sfortuni, perché lui prima subisce un paio di attacchi cardiaci che supera in maniera anche brillante, perché addirittura dopo uno di questi torna a giocare. Poi ha un problema che richiede un'operazione al cervello, un problema abbastanza importante, e in occasione di quell'operazione una trasfusione di sangue infetto lo contagia di questa malattia. Da lì in poi partirà questa battaglia straordinaria, proprio per intensità, per il modo in cui lui deciderà di comunicare al mondo intero di essere stato colpito da questa malattia e di viverla con grande dignità. Viene da pensare, leggendo quelle pagine, a che cosa sarebbe successo oggi nel mondo dei social, no? E di come sarebbe o non sarebbe stato possibile mettere in atto, insomma, la strategia che Arthur Ash decide, proprio perché anche la sua malattia diventi un'occasione per rivendicare la forza e l'importanza della difesa dei diritti. Morirà di lì a poco Arthur Ashe, il 6 febbraio 1993, lasciandoci in eredità il suo tennis, che nel 68 lo portò ad essere il numero uno al mondo, ma, come avete sentito, anche tanto altro. Paolo Bertolucci, chiudiamo con un sorriso e con un gioco. Che posto avrebbe Ashe nel tennis di oggi? Avrebbe un posto di rilievo, perché giocava bene, aveva, ripeto, facilità, avrebbe incontrato grossi problemi sulla terra battuta perché era leggero, però sui campi rapidi avrebbe detto la sua, e come, tenendo presente le modifiche che ci sono stati negli ultimi 30 anni, sia dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista della preparazione, della metodologia di allenamento. Ci sono nuovi attrezzi che facilitano sicuramente la velocità di palla, le scarpe sono cambiate profondamente, le corde, quindi le palle, quindi da questo punto di vista avrebbe sicuramente tratto giovamento. Mauro Berruto, le chiedo invece cosa le rimane a lei personalmente oggi di Arthur Ashe. Mi rimane la straordinaria forza e la straordinaria importanza dell'essere esempi viventi, dell'esemplarità. Ashe vive così la sua carriera di atleta, vive così la sua carriera di commissario tecnico e di capitano della Coppa Davis. Dice in un passaggio che ho presentato ancora una volta in maniera intensissima, io... parla di una partita abbastanza insignificante in occasione di una partita di Coppa Davis dove lui partecipa da atleta, e io mi sono emozionato quando il giudice arbitro, al posto del mio cognome, ha detto insomma set partita incontro per gli Stati Uniti, perché lui dice: io in quel momento ho capito che stavo rappresentando qualcosa di enormemente più grande e più importante di me. Paolo Bertolucci, Mauro Berruto, grazie per essere stati questa sera ospiti di Olimpia, la città dello sport. È sempre un grande piacere, grazie. Grazie a voi davvero di cuore, buona serata. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.